Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, cresce la febbre a 30 ore dal ritorno di Barcellona-Inter, cresce tra gli interisti ma ancor più tra i culè, come vengono chiamati i tifosi blaugrana, che stanno caricando un po' tanto, a parer mio, le tinte di questa sfida, che non è mai un buon segno, insomma, secondo l'esperienza che ho maturato in tempo, in un percorso abbastanza discreto. È lo stesso parere anche di Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Confermo, buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Segnale di debolezza, segnale, devo dirti, anche un po' deludente, non tanto perché ci sia una gran cassa mediatica che ci si poteva anche aspettare. La Spagna in questo è molto più calda e oltretutto il Barcellona rappresenta un popolo, quello catalano, che già di per sé rivendica una identità sua, ma anche per il fatto che gli stessi giocatori si siano prestati a questo. Questo mi ha un po' deluso e mi porta a pensare che in questo momento il Barcellona sia una squadra molto più vulnerabile, sia una squadra che chiedendo così a gran voce, chiedendo in maniera così veemente, addirittura eccessiva, l'intervento del pubblico, l'intervento, il sostegno del popolo catalano, ecco che a me pare più un segno di debolezza che di forza. Anche a me, anche perché sono automatiche queste cose, cioè vorrei vedere che i tifosi del Barça, la Catalogna tutta, la squadra, non avessero tutte le migliori intenzioni, no, di tentare questa famosa remontada senza bisogno, no, di caricare ad ogni costo le tinte. Partiamo da un paio di notizie che sono, innanzitutto i 25 convocati dell'Inter, tra cui sia Sneijder che Balotelli. Allora, quella di Balotelli al momento sembra ancora, poi se tutto si chiarirà meglio nella conferenza stampa delle 18.15, 18.30 di Barcellona di Mourinho, ma stamane l'Inter si è allenata e insomma, il fatto che siano stati convocati entrambi significa per Balotelli un tentativo di reinserimento, io non credo assolutamente in squadra, ma questo poi sentirò la tua opinione. Per Sneijder invece sembra che davvero i problemi siano rientrati, perché stamane, leggo dall'Ansa, l'olandese ha fatto un allenamento vero e proprio e quindi crescono le possibilità che domani sera sia disponibile. Fino a che punto secondo te è lecito parlare di pretattica? E fino a che punto invece è credibile un recupero miracoloso? O non era piuttosto credibile che l'infortunio di sabato sia stato gonfiato? Ma secondo me vale un po' tutto. Intanto Mourinho ha convocato tutti, ha convocato anche Stankovic, che è squalificato, quindi significa che vuole proprio dare un segnale ai suoi di unità, sì, massima assoluta. Sì, ha convocato anche quattro portieri, scusami, per completezza, infatti, insomma, quindi è ovvio che ha portato tutti i disponibili, insomma, tutti. Ha portato tutti e porta anche chi non è disponibile, in realtà. Come Stankovic, è vero. Esatto, ma per il gruppo e per tutto il resto, quindi escludere Balotelli in questa situazione credo che sarebbe stato un qualcosa anche di eccessivo. Per quanto riguarda l'infortunio a Sneijder, io vedo che Sneijder recupera molto più rapidamente di altri, nel senso che è già successo che Sneijder fosse in dubbio prima di partite importanti, ricordo soprattutto la partita di Kiev, e quindi è possibile che l'immediatezza dell'infortunio di Sneijder faccia pensare, faccia propendere per uno stop lungo e poi in realtà il giocatore sia in grado di recuperare. Io ho visto le immagini questa mattina da Piano Gentile, mi è sembrato in grado di fare l'allenamento come gli altri, e quindi in questo momento, se non ci sono cose che non sappiamo, in questo momento è disponibile. In questo momento Sneijder è titolare dal primo minuto nell'Inter di mercoledì. Allora, facciamo una piccola digressione, giusto per la ricostruzione. Una volta, si prima di spendere la parola stiramento, ci si pensava su tre volte, perché stiramento voleva dire da 15, 20, 25 giorni all'insù. No, e poi si arrivava dal mese e mezzo, dai 40 giorni in su per lo strappo. Allora, evidentemente quello di Sneijder era soltanto un affaticamento muscolare su cui qualcuno ha un po' ricamato e ha un po' caricato le tinte. Io perlomeno questo lo auguro sia a Sneijder che all'Inter che all'Olanda, perché insomma, mi sembra che possa bastare Milan Lab per i recuperi affrettati. Sto pensando a Pato che a differenza di Sneijder, che questo problema l'ho accusato nell'intervallo, si è detto di un pallone ciccato, e me lo ricordo anche verso la fine del primo tempo della partita con l'Atalanta, questo pallone ciccato, come spesso capita giocando al pallone, vai calci, cerca di calciare forte, vai a vuoto, non hai l'impatto e quindi c'è un problema. Si allunga il muscolo. Esatto, c'è un'elongazione, un piccolo rea muscolare. Lui ci ha giocato su e poi nell'intervallo, al momento di rientrare in campo, avrebbe avuto questo piccolo problema. Allora, questo è Snyder. Pato era uno che tutti abbiamo visto fermarsi tenendo la coscia, no? Sì, sì. E crollando a terra. E quando qualche giorno dopo Milan Lab, ripeto, ci ha fatto sapere che era una questione di pochi giorni, di 8 o 10 giorni circa, noi della vecchia scuola abbiamo provato a dire speriamo che sappiano quello che fanno. Lo sapevano talmente bene che ci hanno giocato, ricaduta, 2 mesi, eccetera. Snyder mi sembra tutta un'altra storia. No, è tutto un altro film, può anche essere che siano fibre muscolari diverse, anzi è certamente così. Sugli infortuni io ormai ho smesso di esibirmi perché intanto credo che al di là poi del rispetto della privacy di ognuno, quello che ci viene raccontato sia sempre una parte, alcuni per motivi di pretattica, altri per motivi scaramantici, altri per motivi che ignoro. Fondamentalmente sulla gestione degli infortuni, non avendo una laurea in medicina, preferisco soprassedere. Quello che dicevi tu è vero, ci sono squadre che trattano i giocatori in un certo modo, altre che hanno un trattamento diverso, e poi è evidente che le ricadute, come spesso capita, ma capita anche nei raffreddori più comuni, la ricaduta è molto peggio della caduta e poi te la tieni. Questo è vero. Io penso che se davvero Snyder giocherà, o comunque se Snyder stamane si è allenato sul serio, questo è già un dato di fatto, io credo che la verità sia pencoli dal fatto che c'è stato un eccesso di zelo da parte di qualche cronista, oppure già dalla società c'è stata un'enfatizzazione per ragioni di pretattica, che è perfettamente legittima peraltro. Perché lo dico? Perché Snyder non ha davanti soltanto stasera l'eventuale finale e le ultime 3 partite di campionato più la finale di Coppa Italia, ha davanti il mondiale da protagonista con l'Olanda, quindi io non penso che un giocatore del genere possa rischiare, no, di saltare un mondiale avendo davvero un sospetto di stiramento nella gamba, non ci credo. Bene, fin qui siamo arrivati. Adesso calcolando anche che tra non molto dobbiamo dare l'aggiornamento alle strade, io passerei, Fabio, a una parentesi, poi torniamo a Barcellona, alla parentesi di stasera, che non è poi così secondaria, perché chi domani sera riuscirà ad uscire, no, da questa bolgia di Barça Real si troverà di fronte o il Lione o il Bayern. Qualche messaggio in attesa poi dei vostri interventi in diretta più tardi. Davide scrive da Forlì: caro lei, alla Juventus non serve un Benitez ma un Mussolinez, che vabbè, è un giochetto di parole, non è nemmeno così male, e soprattutto arriva da un territorio in cui dovrebbe esserci una discreta competenza, visto che Predapio è giusto a 2 passi da Forlì, da dove ci arriva questo messaggio. Oggi, scrive Alessandro da Arcore, è il compleanno di Pulici. Ce lo ricorda come uomo e come calciatore con grande piacere, e ve lo ricordo tra poco, ma era già ampiamente previsto in scaletta. 27 aprile 1950, la data di nascita di Paolino Pulici, che oggi per l'appunto taglia il traguardo dei 60 anni. Torniamo in compagnia di Fabio Tavelli e torniamo a Lyon-Bayern. Allora, l'ecatombe dei centrali questa volta sembra colpire il Bayern, perché ai problemi di De Michelis si sono aggiunti quelli di Van Buyten, e dunque sono tutte e due in forse, e la sensazione è che questa volta le azioni e le chance del Lione stiano crescendo, e che il Lione non ha giocato in campionato contro il Monaco e quindi ha avuto qualche giorno in più per prepararsi. Il Bayern invece ha giocato una partita complicata a Mönchengladbach contro il Borussia ed è stato agganciato in vetta alla classifica dallo Schalke 04. Il Bayern di Monaco probabilmente, conoscendo quelle che sono le inclinazioni di Van Gaal, giocherà con 2 attaccanti, giocherà Klose, che ha segnato sabato, e giocherà Olic, questo per sfruttare le difficoltà invece del Lione in fase difensiva. Lione che però recupera Bomsong, Bomsong che abbiamo visto in Italia, forse era meglio non recuperarlo per Puel. Il Bomsong ultima versione, quella lionese, è certamente migliore ed è comunque un recupero obbligato, perché la squalifica di Toulalan e l'infortunio di Clerc costringono Puel a schierarlo dal primo minuto. Io ho visto questa mattina informazione su molti giornali e anche su molti siti Gomis, ho più la sensazione che possa giocare Govu, perché comunque il Lione non ha bisogno di una partita, cioè di una remontata, nel senso che comunque il risultato dell'andata è molto meno, cioè è meno ampio rispetto a quello subito al Barcellona, quindi il Lione può giocare una partita anche molto più attenta e meno all'arma bianca, quindi mi aspetto ovviamente Lisandro Lopez davanti, ma Govu laterale. Per quanto riguarda il Bayern di Monaco, è ovvio che il Bayern di Monaco cercherà di fare un gol, è altrettanto vero che il cammino del Bayern di Monaco fino adesso in Champions è stato di una linearità pazzesca, cioè vittoria in casa e risultato negativo in trasferta, ma sufficiente per passare. Non so se ce la farà anche stavolta Van Gaal. Ripeto, io comincio ad avere delle sensazioni molto positive riguardo il Lione, però ripeto, sono sensazioni non corroborate da nulla, perché in realtà la squadra più forte è il Bayern, ed è chiaramente il Bayern che rinuncia a Ribéry, ma molti miei colleghi che seguono la Bundesliga dall'inizio della stagione mi dicono che questa è stata una stagione pessima per Ribéry, quindi sia dal punto di vista comportamentale, dal punto di vista psicologico e anche tecnico, non ha sempre incantato. Insomma, probabilmente giocherà contento dal primo minuto e Bad Stuber rientrerà dalla squalifica, ma giocherà centrale, non laterale. E poi per il resto direi che la formazione è obbligata, perché Timo Schuk è rimasto a casa, non è un giocatore che Van Gaal ami tantissimo, ma ha avuto un problema di gastroenterite. Timo Schuk secondo me ha giocato una buona partita all'andata, questa volta Van Gaal non lo ha a disposizione. Dunque, Vigilia invece, cioè, torniamo a Barcellona. Sì. Mi pare che la formazione dell'Inter comunque dipenda tuttora, no? da Sneijder, anche sì. Perché credo che l'impiego di Sneijder chiami in causa qualche dubbio in più su Pandev. Pandev è un altro che verrebbe recuperato da un problema, insomma, fisico. Io credo che per una partita del genere Mourinho non rischierà due giocatori entrambi sotto, no? sotto entrambi a rischio, insomma, al massimo uno dei due. E quindi a questo punto come ti configuri l'Inter? Poi vediamo il Barcellona. Io faccio molta fatica in questo momento a configurare l'Inter, proprio perché l'Inter non ha un giocatore in quella situazione che possa surrogare Pandev, nel senso che avrei visto bene Stankovic, ovviamente, ma certo, la squalifica di Stankovic lo mette fuori. Stankovic secondo me sarebbe un giocatore perfetto per una gara del genere, perché è capace ad aiutare sia il centrocampo in fase di tamponamento che poi in fase di rilancio. Se Mourinho intende giocare, credo, la stessa gara che ha giocato a Stamford Bridge, e cioè quella di mettere dentro tantissimi attaccanti e di giocare fondamentalmente in contropiede, io credo che Pandev potrebbe avere spazio. Poi è chiaro che se non ci fossero situazioni che conosciamo, uno come Balotelli una partita così la dovrebbe giocare. Non credo però che Mourinho lo metta in campo. Non credo nemmeno voglia giocare con Muntari, che è un giocatore che ha dimostrato, insomma, di non esserci a questi livelli. E quindi, insomma, se stanno minimamente bene, io credo che Pandev e Sneijder giocheranno dal primo minuto. Interessante questo messaggio firmato da Camillo, che scrive da Pescara. In verità i giocatori del Barça hanno sbagliato anche i tempi, perché hanno iniziato troppo presto a caricare e a caricarsi. In questo modo resteranno tesi per troppo tempo e rischieranno di arrivare alla partita stanchi e non lucidi. Avrebbero semmai dovuto cominciare oggi. Non è male questa osservazione qua, perché no, è molto intelligente. È molto devo anche dire che c'è una componente di scaramanzia che nel calcio ha un suo valore e che solitamente consiglierebbe più prudenza. Io ricordo ad esempio quanto fece una certa stampa italiana quando l'Inter di Mancini dovette tentare la rimonta contro il Liverpool due stagioni fa, e cosa che invece non portò benissimo. Posso anche raccontarvi, se volete, quello che scrivevano e dicevano i tedeschi il giorno d'Italia-Germania ai mondiali di 4 anni fa, quando sostanzialmente ci volevano quasi dire lasciate pure qui il pass, andate pure pure a casa, che tanto stasera vi mandiamo a casa noi. Insomma, davvero me lo posso aspettare da molti, dal Barcellona, ripeto, me lo posso aspettare dalla stampa, me lo posso aspettare da AS, da Mundo Deportivo, da Barcellona TV, ma vedere i giocatori che indossano questa maglietta, che oltretutto, voglio dire, che il Barça possa vincere 2-0 in casa contro qualsiasi squadra, non mi pare una cosa epica, mi pare una cosa quasi normale, perché il Barcellona ha abituato. Certo, poi c'è la rimonta, c'è tutto il resto, sì, c'è la voglia di andare a Madrid e così, però caricare, come dire, cioè, Piqué ieri ha detto una cosa che è quasi da denuncia, ha detto: vogliamo che in quei 90 minuti i giocatori dell'Inter rimpiangano di essere calciatori. Si pentano di essere calciatori. La frase la trovo di una stupidità. Assoluta, assoluta, e in clamoroso contrasto invece con l'atteggiamento che ha in campo Piqué, che è oltretutto molto corretto, molto civile, molto elegante. È un giocatore che a me piace moltissimo, non capisco da che sacco abbia estratto questa farinaccia qui. Insomma. Allora, chiudiamo con la formazione possibile del Barça. La loro assenza grave, molto grave, è quella di Puyol. Dovrebbe essere Gabi Milito il sostituto, sì, al fianco di Piqué, oggi lo indicano tutti. Però quando io vedo un centrocampo con Xavi, Pedro Busquets e Keita, e vedo fuori quindi l'altro nero alto che non mi ricordo mai come si chiama. No, loro hanno Abidal, il problema di Abidal, loro hanno Abidal che c'è, non dovrebbe essere recuperato. Per cui se Abidal non recupera, poi giocherà Maxwell a sinistra, certo, e il centrocampo di fatto è abbastanza obbligato, perché non essendoci nemmeno Iniesta, io credo che non abbia grandi possibilità di invenzione Guardiola. Ma Yaya Touré deve stare fuori? Perché Yaya Touré no, io lo faccio giocare sempre. Yaya Touré tra l'altro può giocare strano. Può giocare centrale difensivo e dare una certa solidità. Non lo so, secondo me Guardiola aspetterà di vedere la rifinitura dell'Inter al Camp Nou, quando avrà la certezza che Mourinho metterà in campo Sneijder dal primo minuto. Secondo me poi si chiarirà meglio le idee anche lui, anche perché io non sono sicurissimo che lui giochi con Ibrahimovic punta centrale, perché secondo me un'idea di tenere i piccolini davanti per una partita così certamente ce l'ha. Di provare a giocarli in agilità e in velocità, e poi eventualmente di ricorrere a Ibra nel secondo tempo. Questa è un'altra possibilità, secondo me. Il Barcellona ne ha molte, come ne ha molte l'Inter. E queste sono le ore in cui si cercano le soluzioni ideali. Va bene, torneremo ovviamente a riparlarne insieme giovedì a Cose Fatte, come in ogni settimana di Champions. Grazie a Fabio Tavelli. A voi, buona giornata Gigi, grazie. E i primi interventi degli ascoltatori. Comincerei con un intervento campione, prima dell'intervallo, Mario dalla provincia di Milano. Buongiorno. Garanzini, buongiorno, è sempre un piacere. Io volevo dare da milanista, quindi da esterno, una piccola, diciamo, motivazione, un piccolo motivo per questi alzamenti di toni da parte del Barcellona a tutto. Secondo me, perché, permettendo che io non amo questo tipo di toni alzati, però per la prima volta io cerco di capire il perché. Perché per la prima volta il Barcellona in questi due anni di gestione Guardiola è forse per la prima volta seriamente in difficoltà in un doppio confronto, perché l'abbiamo visto l'anno scorso col Chelsea, ma era la partita di ritorno. All'andata il Barcellona ha dominato nettamente sul piano del gioco. Questa qua è la prima volta che vedo il Barcellona in difficoltà, e questo da milanista è un elogio all'Inter, ed è per questo che io sto cercando di trovare il motivo di queste uscite, ecco, questo atteggiamento insolito, certo. No, ma sono d'accordo con lei, infatti è una domanda, però un po' tutti hanno la sensazione, non so, mi scrive Walter Sguazzin per esempio, dice: non le pare che queste dichiarazioni catalane siano un po' esagerate e facciano trasparire un forte timore di fondo? Io penso, scrive questo ascoltatore, che il Barça sia più forte dell'Inter, ma questo atteggiamento mi fa pensare che temano l'eliminazione più ancora degli interisti, e tutto ciò potrebbe essere controproducente per loro, come io spero vivamente. Firmato, ripeto, Walter Sguazzin. Sono tutte considerazioni che condivido ampiamente. Mi piace ancora di più quella dell'ascoltatore precedente che ho letto prima, che dice che se non altro ha sbagliato i tempi, ha cominciato un po' prestino a caricare questa partita. Poi c'è Stefano da Firenze che dice: si continua a sentire leggende metropolitane sulle misure del campo del Barcellona, per favore potete chiarire la situazione. Grazie, già fatto Stefano la settimana scorsa. In ogni caso si gioca su 105 metri per 68, cioè sulla stessa identica superficie di San Siro. Il fatto che il Barcellona, il campo del Barcellona è sempre più largo, cioè una volta lo era, a 4 metri in più, poi le misure sono state ristrette perché per la Champions League le misure devono essere universali, devono essere uguali per tutti, e quindi se la sensazione è che il campo del Barça sia più largo è perché nelle partite in cui loro riescono davvero a fare Barcellona, Dani Alves da una parte e un altro a turno dall'altra, stanno così larghi che ha l'impressione che il campo sia più ampio in larghezza, ma non è così. Sono altri ascoltatori che stanno scrivendo per ricordare come oggi sia il 60° compleanno di Paolino Pulic. Evidentemente il Torino ha ancora qualche tifoso sparso per il paese, e soprattutto c'è la memoria di questo grande attaccante, certamente il più forte che il Torino abbia avuto nel dopoguerra. Oggi c'è una bella intervista sulla Stampa di Torino al neo sessantenne Pulici, scritta da Paolo Brusorio, che gli domanda ad un certo punto nel corso di questa lunga intervista: qualcuno forse non conosce la storia, e si riferisce ai giocatori del Torino di oggi. La risposta di Pulici: ma chi gliel'ha spiegata? Il Philadelphia non erano solo muri, era la gente che tutti i giorni ti vedeva in faccia, ti spiegava e ti incitava. Per noi indossare la maglia granata significava rispettare i morti di Superga, i tifosi e noi stessi, sia quando giocavamo per salvarci che quando giocavamo per lo scudetto. Che cosa le piace del calcio di oggi? Molto bella questa risposta. La Premier League, dove se uno prende un colpo allo stomaco non si tiene la faccia. Mi sembra molto bella. E poi Messi, i bambini si divertono a guardarlo, prende botte e non va mai per terra. C'è qualcuno che incarna il suo calcio o è tutto da buttare? E qui arriva la sorpresa. Certo che c'è. Zanetti, per esempio, un vero capitano per la serietà e per l'impegno. La sorpresa arriva adesso. E Del Piero. Allora, l'intervistatore lo incalza e dice: come, il simbolo della Juve, detto da lei? Del Piero è una persona molto seria, gli dicono di tutto e lui non brontola mai. È un esempio, peccato che non tutti lo seguano. Paolino Pulici, detto Pupi, classe 1950, 60 anni oggi. Tocca a Marco da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, sarò breve, complimenti per la trasmissione. Ecco, io solo per dire, prendendo l'esempio questi capitani, Ballotelli dovrebbe prendere un serio esempio per crescere. Poi un'altra cosa, secondo me domani nel secondo tempo potrebbe giocare. Poi volevo chiederle qualcosa su Arnautovic, perché secondo me ho visto qualche partita, è un buon giocatore. E poi faccio i complimenti a tutti i giocatori che si impegnano nel sociale, siccome io ho due figli, dico uno disabile, e vorrei che si facesse un po' di più. La ringrazio. Grazie a lei, Marco. Io credo che lui, non conosco molto Arnautovic e non saprei dirle nulla di significativo, ma mi pare invece molto significativa l'ultima cosa che ha raccontato lei. Mi scrive, vediamo un po', Claudio da Quarona Valsesi. Se ricordo bene la geografia non è proprio, insomma, è all'imbocco della Valsesi. Comunque, pensi che ieri sera in una trasmissione, scrive Claudio su Rai 2, il signor Galeazzi ha detto che il campo del Barça è addirittura 15 metri più largo. Incredibile a un certo punto, perché si vede che sulla larghezza, no, il buon bisteccone ha parametri diversi, no? È pur cause, probabilmente. Giovanni, provincia di Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo chiederle dare la mia sulla formazione dell'Inter, visto che voi avete parlato della formazione del Barça. Io personalmente farei giocare Chivu terzino, rispetto alla partita di Milano, sì. Chivu terzino sinistro, sì. Farei giocare Thiago Motta nel posto dove giocava Pander e farei marcare a uomo Messi da Zanetti. Lei cosa ne pensa? Penso che sarebbe il modo migliore per prenotare una sconfitta travolgente. No, per carità, tanto non ci sono le controprove, Giovanni. Non c'è la ricetta infallibile, però proprio la partita era andata. Io lasci stare Chivu piuttosto che Motta, queste sono scelte che. Ma proprio la partita andata ha dimostrato che la marcatura a zona, cioè la marcatura in pressing e raddoppiata su Messi, è quella che può funzionare meglio, no? Perché mi sembra che. Mi sembra che questo proprio abbiano dimostrato quei 90 minuti. Quindi prendere un uomo e stravolgere la squadra, quindi creando dei varchi da un'altra parte, perché Zanetti da qualche punto dovrebbe pur sparire, no? Per farsi portare in giro la Messi, sarebbe il modo migliore per valorizzare Messi. Ferma restando una cosa, ho la sensazione che il Messi del Camp Nou, no, ho la sensazione, ho anche qualche testimonianza e qualche partita vista in questi 2-3 anni di Messi. Il Messi del Camp Nou è diverso dal Messi da trasferta, il che non vuol dire che in trasferta sia un coniglio oppure si nasconda oppure sia uno di quei giocatori dal rendimento negativo sempre, però diciamo che in casa si esprime in tutt'altra maniera, quindi è indubbio che il problema Messi domani sera, perlomeno sulla carta, si annuncia un po' più impegnativo da risolvere che non all'andata, ma secondo me non con una marcatura uomo e tantomeno di Zanetti. Sentiamo Moratti su questa vigilia e su questa pressione del Barça. Un punto in più, un punto in meno, sappiamo che mancano ancora 3 partite importanti sia per noi che per la Roma, perché è una semifinale di Coppa dei Campioni, ci tengono ad andare in finale, cercano di fare un po' di pressione sull'arbitro, questo è abbastanza normale. Mix in realtà tra no, credo che invece si sia espresso con più in maniera più compiuta il presidente del CONI Petrucci a proposito dell'Inter, che lui vede favorita. Sentiamo. Per me favorita è l'Inter, non è che uno alla vigilia deve avere paura di dire quello che pensa. È favorita l'Inter per tante considerazioni, la principale è che in casa ha vinto nettamente giocando molto bene e veramente facendo un gran gioco. Secondo punto di vista, il Barcellona è vero che è una grande squadra, sarei un folle se dicessi il contrario, ma la realtà è che in questo momento ritengo l'Inter più in forma, un Inter che ha più fame, un Inter che ha più determinazione. Queste sono le mie considerazioni, poi uno dice potresti essere smentito, certo, però almeno ho il coraggio di dirle. Era il presidente del CONI Petrucci. Ciro ha chiamato da Napoli, buongiorno. Dottor Garanzini, complimenti. E adesso sono tifoso dell'Inter, però sì. Vorrei parlare un attimino di Ranieri, perché ieri ho ascoltato una telefonata che denigrava la carriera di questo allenatore. Mm-hmm. Ma io, se ricordo bene, credo di ricordare bene, quest'ultimo portò il Cagliari dalla C alla A in 2 anni, fece bene a Napoli, preparò il terreno agli allenatori che vennero dopo a Valencia e a Chelsea, a Firenze mi sembra che pure fece delle buone cose, a Torino si è visto quello che è successo dopo, e da Roma in silenzio, piano piano, si è messo lì, ha guadagnato punti, si è portato sotto, si sta giocando il campionato, spero che lo perda da interista, per carità, però perché denigrare questa persona che comunque ha avuto un cambiamento anche da quando giocava da calciatore, è diventato poi allenatore, mi sembra che sia evoluto, si sia calmato, quindi a me le dico, non mi dispiacerebbe vederlo all'Inter un giorno che poi magari il grande Mourinho se ne andasse via, non mi dispiacerebbe vederlo. Lei cosa ne pensa? Non crea Ranieri italiano, quindi già ha una incompatibilità di fondo, mi sembra, con l'Inter di questi anni, però al di là di questo io non solo condivido quello che lei dice, ma rafforzerei questo concetto. Ieri un ascoltatore, ma anche qualche messaggio, erano incentrati su questo vecchio stereotipo che riguarda Ranieri e che riguarda chiunque non vinca quell'anno, che è quella del perdente, no? Che è una delle più grandi comiche e una delle più grandi tare dei nostri tempi. Per cui se uno, cioè puoi solo vincere, no? Non puoi fare bene o benissimo in rapporto alle forze che hai a disposizione, no, puoi solo vincere. E mi tornava in mente che fino a non molti anni fa, fino credo a prima del 2004, il perdente per eccellenza era Carlo Ancelotti, mi sembra, no? Io ero già qua allora e di telefonate e messaggi come questi ne fioccavano molti di più. Ancelotti era il perdente, poi un giorno ha avuto una squadra un pochino più forte di quella che aveva allenato fino a quel momento e ha smesso di essere perdente. I vincenti poi un giorno smettono di allenare squadre davvero forti e diventano perdenti. Io ricordo, parliamo di anni 70-80-90, io ricordo che l'allenatore vincente per eccellenza allora si chiamava Giovanni Trapattoni, che poi un giorno andò a allenare il Cagliari e dopo una dozzina di giornate se ne tornò a casa, perché se alleni l'Inter, il Milan e la Juventus l'etichetta di vincente è non dico sia automatica, però insomma è più facile da attribuirsi, no? Se poi vai a allenare il Cagliari magari è leggermente più dura. Fabrizio ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno, dica. Tutto, complimenti per la trasmissione. Uh-huh. Poi niente, volevo chiedere una sua opinione, un suo parere sul Novara, che con 2 giorni d'anticipo è andato in Serie B, una squadra forse pulita in questo momento di calcio un po' strano, un po' particolare, che comunque è riuscito a tornare nella Serie B dopo parecchi anni, insomma. Sì, il Novara è una delle squadre che stanno un po' cambiando la geografia del calcio, come, come ogni anno sta cambiando. Ne ho, me ne sono occupato stamattina del Sole 24 Ore, perché insomma non ci sono ancora, sì, quello del Novara è un verdetto definitivo, altri sono in sospeso, però sia in positivo che in negativo, cioè sia per chi retrocede che per chi viene promosso, come ogni anno più o meno c'è questo... c'è questa ristrutturazione geografica del grande calcio italiano. Questo è un anno nero per la Toscana, non c'è nessun dubbio. Il cosiddetto Granducato di Toscana è un disastro, perché Livorno è già retrocesso aritmeticamente, sia pure con un congedo molto dignitoso, no? Contro, contro il Catania, un grande gol di Bellucci, e, però insomma è retrocesso. Il Siena retrocede domenica o al massimo quella dopo, perché la situazione è disperata. La Fiorentina è, insieme alla Juventus, la grande delusione dell'anno, e quindi da tre squadre si passa una in Toscana, ma con, una, con la, la, la capofila che perde 18 punti in una stagione, da una stagione all'altra. Lo scorso anno, a tre giornate alla fine, la Fiorentina aveva 64 punti, l'ho detto ieri, adesso ne ha 46, si leggono al contrario i due numeri. Potrebbe, potrebbe salvare l'onore della Toscana o il Grosseto o l'Empoli, o addirittura tutti e due, più attraverso i play-off di B che non attraverso la promozione diretta, ma insomma è tutta ancora da, da vedere. Poi c'è, il, c'è una new entry in Serie B, invece c'è una possibile new entry abbastanza clamorosa, perché o Sassuolo Romagna o Romagna Emilia o Cittadella Veneto, beh insomma sono due realtà che intanto sarebbero inedite, e poi comunque nessuno si sarebbe mai aspettato a questo livello, tantomeno il Cittadella, perché nel Sassuolo si era già tirato fuori il naso lo scorso anno. E poi il Novara, che riporta una squadra al di fuori di Juventus e Torino, ma al di fuori di Juventus, perché il Torino è in Serie B e con 95 realtà su 100 ci resterà, riporta un'altra squadra piemontese in, in Serie A. E infine direi il Veneto, il Triveneto, perché nella stessa categoria del Novara, cioè per la salita in B, è un derby ormai tra Verona e Portogruaro, e col Portogruaro in netta ascesa di rendimento, e il confronto diretto, se non ricordo male, all'ultima giornata, e quindi sarà una partita certamente che farà, farà epoca. Vedrete, scrive Salvo, proprio la Novara, che conoscendo il suo allenatore e la sua voglia di stupire, domani Balotelli gioca dall'inizio. Salvo, non credo, mi sentirei di escluderlo. Roberto da Bologna dice: marcare uomo Messi significa mandare un giocatore incontro a un'ammonizione precoce e a rischio di espulsione, e questo è un'altra buona ragione, appunto, per evitare, cioè, il bello delle gabbie in pressing sui grandi giocatori, ma valeva ai tempi di Maradona, insomma vale da quando si gioca a zona prevalentemente, il bello della zona è che anche i falli li ripartisci, cioè ripartisci le zone di campo in cui il campione può esprimersi, ma ripartisci anche il carico di falli tra l'uno e l'altro. Questo è cinico magari, ma è assolutamente evidente e legittimo. Il ripasso di storia, Nicola Filippone. Sembra ieri. 27 aprile 1980. All'Inter basta conquistare un sofferto punto pareggiando in casa contro la Roma 2-2 per festeggiare il dodicesimo scudetto. In una stagione sconvolta dallo scandalo scommesse, la squadra di Bersellini ha brillato per continuità e compattezza, rimanendo sempre in testa al torneo. Diversi i fattori che hanno determinato il successo dei nerazzurri. Le 15 reti di Altobelli, che con Carletto Muraro forma una coppia d'attacco ben assortita, l'estro di Evaristo Beccalossi e soprattutto il lavoro di sostanza di difensori e centrocampisti, molti dei quali, come Beppe Baresi, Bini, Canuti, Oriali e il portiere Bordon, provengono dal vivaio interista. Vero, a proposito di Giovanni Trapattoni, scrive SF da Torino: o di qualsiasi allenatore allena una grande squadra, lei ha parlato come un libro stampato. Beh, insomma, io in genere i complimenti li evito, soprattutto quelli scritti, però questo mi fa piacere, io credo profondamente in questo concetto. Franco da Cantù fa notare: sono ricominciati i complimenti per la trasmissione, dopo una sua pseudo romanzina sembravano finiti, ma ora stanno tornando a galla. Ne faremo un'altra, cioè la più affettuosa possibile, intendiamoci. Sentiamo Daniele, che ha chiamato da Milano. Buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Ascolti, io volevo farle una domanda riguardo una cosa gravissima che ho sentito ieri in una nota trasmissione di Canale 100. ho sentito riguardo a Balotelli, che la sceneggiata che ha fatto quella domenica, adesso non mi ricordo bene, che ha buttato la maglia per terra, un suo collega, un noto giornalista che sta nelle televisioni, dare del negro di merda a Balotelli ripetutamente. Ma come, e in onda, in studio? Sì, sì, in studio, è stato preso da Striscia la notizia, poi dopo il giornalista Staffelli gli ha consegnato il tapiro e lui si è scusato un attimino, ma non era molto convinto, e a telecamere spente ha detto queste frasi, ha detto io lo rifarei ancora, quel negro di merda, anzi se ero lì gli avrei tagliato la gola. Un giornalista sportivo che si permette di dire una cosa del genere. Beh, insomma, io intanto un essere umano che si permette di dire una cosa del genere, no? Partirei, io la prendo per buona, evidentemente, anche perché vedo le scene di riscontro di là dal vetro. Io le garantisco che non pratico questo genere di fogne televisive da un sacco di anni. Ripeto, resterei sul genere umano prima ancora che sul giornalista sportivo. Certo, questo alla categoria non può che portare ulteriore disdoro, come se già non ne avessimo, no, a sufficienza, come se ne avessimo bisogno. Però certo, è una frase, un'espressione di una gravità assoluta. Immagino, non voglio sapere chi è, perché sinceramente non mi interessa per nulla, immagino che questo faccia parte comunque del... come dire, di ragioni contrattuali, no? Nel senso che, per l'appunto, in certe fogne o vai oltre o non scatta, come dire, il premio partita. Quindi immagino che possa essere solo una cosa del genere che può portare, ripeto, un essere umano, non un giornalista sportivo, a sostenere a freddo davanti a una telecamera, ad affermare a freddo davanti a una telecamera una cosa di questo genere. Dario da Bologna, buongiorno. Sì, salve Granzini, da permettere dico che sono un tifoso milanista, però sicuramente lei si ricorderà, innanzitutto parlo della guerra mediatica del Barcellona, sicuramente lei si ricorderà nel 94 una finale Barcellona-Milan con allenatore Cruyff, altra guerra mediatica in cui Cruyff diceva che avrebbe stravinto il Barcellona, non si sa, l'unico dubbio era il risultato finale. È vero, però è profondo. Visto, sì, era una finale, poi no, si è visto, ma, con la doppietta di Massaro, De Zaghi, e la strepitosa rete di Savice, si ricorderà magari. Ecco. Sì, perché ero ad Atene, quindi me la ricordo discretamente quella partita, avendola vista sul campo. Sì Dario, c'è una differenza fondamentale, secondo me. Allora era una finale, si giocava in campo neutro, non era una semifinale di ritorno. La differenza è questa, secondo me, che allora Cruyff peccò, e peccò clamorosamente, di sbruffoneria, non so nemmeno bene come si dica, e comunque di clamorosa sottovalutazione del Milan. Ma sa di che cosa del Milan in particolare? Delle sue risorse, delle sue seconde linee, perché quella sera mancavano Baresi e Costacurta. Sa cosa vuol dire giocare una finale di Coppa senza i due centrali difensivi, che allora era certamente la coppia più forte del mondo, Baresi e Costacurta, ed erano quelli che, non ricordo se in semifinale o comunque in un turno precedente, avevano mandato, se non sbaglio, 27 volte in fuorigioco al Bernabeu, e anche quella l'avevo vista dal vivo, Sanchez e Butragueño, che non erano esattamente due frillini. Quindi Cruyff evidentemente si montò un tantinello alla testa, pur essendo stato un fenomeno di giocatore e un grande allenatore e manager, ogni tanto gli è capitato di sbroccare. Stavolta è un po' diverso, cioè stavolta è un clima, come dire, minaccioso, è un clima, cioè questi non dicono, io non ho ancora letto nessuno del Barça che dica noi siamo i più forti, noi vinceremo, eccetera, come disse Cruyff quella volta, no? È una forma diversa di pressione, poi certo è una forma di pressione anche questa. Massimo ha chiamato da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno, scusi, se è possibile discostarmi dall'argomento dell'Inter. Certo. Sì, e le volevo chiedere un'impressione riguardo la Juve. Il fatto che Ranieri sia stato mandato via dopo due anni senza che concludesse il terzo mi faceva pensare, non so se lei si ricorda, la Juve di Zoff. Sì. Il secondo anno la Juve di Zoff arrivò al terzo posto, vinse Coppa Italia e Coppa UEFA. Certo. E poi vollero fare un ribaltone, tra virgolette, anche Manfredi. Maifredi, Montezemolo, un ribaltone sì, dal sì. punto di vista della moda. Sì, bravo. E bravo. Decisero di fare tendenza. Tendenza. Ed è la stessa cosa, mi sembra, che hanno fatto quest'anno quando hanno voluto seguire, diciamo, il guardiolismo, no? Dando la panchina a un giovane, eccetera, eccetera. E io penso che quella Juve di Zoff al terzo anno probabilmente avrebbe migliorato, un telaio già buono, se lei se lo ricorda. Certo. Così come Ranieri, secondo me, avrebbe migliorato un telaio già buono mettendo alcuni accorgimenti e forse avrebbe sicuramente ottenuto risultati migliori. Oppure, nella peggiore delle ipotesi, avrebbe fatto una stagione come quella dello scorso anno. Sarebbe stato magari lapidato dal solito giornale torinese e da quelli che pensano che o si vince o non si comincia neanche a partecipare, però insomma, prima di arrivare al disastro di quest'anno, io credo che ne sarebbe passata, ci sarebbe stata discreta differenza. Leggo sul display da parte di una miriade degli ascoltatori che evidentemente non hanno un buon impiego del tempo libero, serale, leggo nome e cognome dell'autore di quella prodezza, non avevo dubbi in proposito, e quindi saluto e ringrazio Carmelo Lauricella in regia, Franco Piantanida in redazione, appuntamento a domani.